Il compagno di viaggio. C'era una volta un giovane ragazzo, Jack, che viveva in una piccola città. Jack aveva sempre desiderato viaggiare per il mondo. Aveva un cuore grande ed era molto gentile. In tanti anni di duro lavoro era riuscito a risparmiare 25 monete d'oro. E così un giorno raccolse tutti i suoi soldi in un piccolo sacchetto e se ne andò per esaudire il suo desiderio. Camminò per giorni finché non si imbatté in una vecchia casa. Chi costruirebbe mai una casa così lontano nella foresta? Sono sicuro che nessuno vive qui. Posso riposare qui per stanotte. Oh, questa bara sembra nuova rispetto a questa casa polverosa. È così strano trovarla qui. Jack si sedette vicino alla porta. Era così stanco che si addormentò all'istante. Mentre dormiva, sognò una ragazza. Indossava un abito bianco. Aveva lunghi capelli setosi e bellissimi occhi neri. Jack si innamorò immediatamente di lei, ma non si rese conto che qualcosa non andava. Lei stava piangendo. Salvami! Salvami! Ma prima che Jack potesse prenderle la mano, si svegliò. Eh? Eh? Che cosa? Che cosa è successo? Shhh. Cosa? Shhh. Non c'è nessuno qui ad ascoltarci. Eh? Hai ragione. Prendiamo in fretta tutti i suoi gioielli. Aspettate, che cosa state facendo? Chi sei? Il mio nome è Jack. Perché stai aprendo la bara di questo povero uomo? Poverino, ha preso in prestito denaro da noi e non lo ha mai restituito. Siamo qui solo per prendere i suoi gioielli e riavere i nostri soldi. No, non importa se non è più vivo. È sbagliato aprire la sua bara. Forza, queste 25 monete d'oro sono tutto ciò che ho. Prendetele e andatevene. Ma non aprite la sua bara, lasciatelo riposare in pace. Questo è troppo. Ci deve molto più di questo. Ma va bene, lasciamo fare. Non apriremo la sua bara. Addio, amico mio. Jack non aveva più soldi adesso, ma non era affatto triste. Sapeva di aver fatto la cosa giusta. Cercò di riaddormentarsi e di sognare di nuovo la bella ragazza. Ma il sogno era sparito, e così pure la ragazza. Al mattino, Jack raccolse le sue cose e lasciò la casa. Camminò a lungo, godendosi l'aria fresca. Dopo un po', vide qualcosa di strano. Dove dovrei stare? Questo posto è bellissimo. Dovrei venire qui più spesso. Beh, certo, fino a... Ciao, ti sei perso? Oh, non è possibile per me perdermi, perché non vado da nessuna parte. Ho deciso di viaggiare in questo mondo e andare dove il vento mi porta. Ah, è fantastico! Sto viaggiando anche io per il mondo. Vorresti venire con me? Come un compagno di viaggio? Sì, perché no? E così iniziò il viaggio di Jack e del suo compagno di viaggio. Aspetta, l'hai sentito? Posso anche vederlo. È una donna anziana. Sembra che si sia rotta la caviglia. Ha bisogno del nostro aiuto, Jack. Andiamo ad aiutarla. Jack, forza, apri la mia borsa e prendi la bottiglia blu. Ah, non posso, è chiusa. Eh? Posso camminare? Posso saltare? I miei piedi sono più forti di prima. Oh, hai un animo nobile. Come posso ripagarti? Che ne pensi di darmi quel bastone lungo e spuntato? Questo? Oh, certo. Prendilo. Grazie mille. A cosa ti serve questo bastone? Amo collezionare cose. Tutto è utile. Jack trovava il suo nuovo compagno molto interessante. Entrambi camminarono avanti e incontrarono collina. Penso che dobbiamo scalare questa collina. Cosa? Questa? Cos'è? Oh, sembrano ali di un uccello. Gli uccelli non lasciano le loro ali. Forse l'uccello sapeva che avrei avuto bisogno delle sue ali per qualcosa. Hai visto? Hanno volato da sole. La tua borsa è magica. Ah, sì? Non lo so. Non l'ho mai notato. Andiamo. Arrivarono in una piccola città. Il compagno di viaggio chiese a Jack di aspettare in strada mentre cercava il miglior hotel in cui alloggiare. Mentre Jack aspettava in silenzio, sentì una voce forte e severa. Spostati! La principessa sta arrivando! Cosa? No, davvero? Che cosa è successo? È la ragazza che ho sognato quando ero nella vecchia casa. Jack raccontò l'intero sogno al suo nuovo amico. Capisco. Devi andare a incontrare la principessa domani. Ed è quello che Jack fece. Al primo raggio del sole del mattino, Jack andò a palazzo. Era un vecchio palazzo malmesso. Jack si chiese se qualcuno vivesse lì davvero. Entrò e non vi erano guardie per fermarlo. Vide il re seduto tristemente sul suo trono. Jack si inchinò al re. Vostra maestà, sono venuto qui per chiedervi la vostra... Lo so, devi essere venuta qui per chiedere la mano di mia figlia in matrimonio. Sì, signore. Aspetta qui, mia figlia sta arrivando. Jack era confuso, ma non osò interrogare il re. Aspettò lì pazientemente. Poco dopo arrivò la principessa. Indossava una tunica nera. I suoi occhi erano spenti e il suo viso era più magro della notte precedente. Ma a Jack non importava. Era irrimediabilmente innamorato di lei. Mia principessa, sono qui per chiedere la tua mano in matrimonio. Va bene, ma prima devi superare una prova. Vieni con me. Jack felicemente seguì la principessa. Stava già sognando un futuro con lei. Mentre entrava nel balcone sul retro del palazzo, vide un lago. Questo è un bellissimo lago. Sono felice che ti piaccia, perché se fallisci la mia prova, sarai gettato in questo lago, proprio come quelli prima di te che sono venuti per sposarmi. Ora ascolta attentamente. Sarai chiamato al palazzo ogni mattina alle 9 per 3 giorni. Ogni giorno dovrai mostrare esattamente a cosa sto pensando. Se mi farei vedere la cosa sbagliata, anche solo una volta, verrei buttato in questo lago. E se lo indovinerai correttamente e mostrerai cosa penso tutte e 3 le volte, allora ti sposerò. Sei d'accordo? No. Hai accettato? Sei più folle di me. Non sapevo cos'altro fare. La amo. E se non potrò sposarla, mi andrà bene anche vivere in quel lago con i coccodrilli. Va bene, vai a dormire adesso. Penserò a qualcosa. Il compagno di viaggio di Jack era preoccupato per lui. Non appena Jack si addormentò, tirò fuori un arco e il lungo bastone dalla borsa. Quindi mise le ali dell'uccello e volò verso il palazzo. Voleva scoprire la verità celata dietro il misterioso palazzo e la sua principessa. Mentre si avvicinava alla stanza della principessa, si nascose dietro una torre. Vide la principessa uscire dalla sua stanza sul balcone. Con sua sorpresa, aprì le ali nere e volò via. Non è una principessa normale. Devo seguirla. Il compagno tirò fuori l'arco e il lungo bastone. Mirò alla principessa e le sparò contro il bastone. Mentre questa si girava, si nascose dietro un albero e sbirciò. Quello che vide dopo lo scioccò. I suoi occhi erano verdi. Oh, lei è sotto un incantesimo. Il compagno di viaggio continuò a seguirla. La principessa volò giù e andò in una grotta. camminò fino a quando arrivò ad una grande sala. Lì, su un trono, sedeva un grande mostro verde. «Maestro, un ragazzo di nome Jack vuole sposarmi». «Un altro? Non devi preoccuparti. Prendi questo. Questo è quello che deve mostrarti». «Sì, maestro». La mattina dopo, quando l'orologio segnava le 9, Jack arrivò al palazzo con una scatola in mano. Si fermò davanti alla principessa. «Mostrami, Jack, a cosa sto pensando?» «Mia bellissima principessa, stai pensando a questo». «Come può essere?» «Perché il mio amore per te è puro». «Basta, ritorna domani». La principessa era molto confusa. Nessuna era mai riuscita ad indovinare. Ma la principessa non sapeva che il compagno di viaggio di Jack aveva osservato il mostro che le dava il guanto. Quella notte volò di nuovo fuori con il compagno che la seguiva. Andò alla grotta e narrò l'incidente al mostro. Ero ugualmente scioccato. «Ma questa deve essere una coincidenza», pensò fra sé. Questa volta le diede 3 biglie. La principessa si inchinò al suo padrone e se ne andò. La mattina dopo, ancora una volta, Jack indovinò. Il palazzo intero ne gioì. Pensavano che Jack fosse un mago. Quella notte, di nuovo in hotel... «Domani è l'ultimo giorno, amico mio. A cosa credi che penserà?» «Lo sapremo domani». Quella notte, il compagno sapeva che doveva fare qualcosa al mostro. Quando Jack si addormentò, volò verso la caverna. La principessa era già lì. «Impossibile! Come può aver indovinato? Va bene, torna al tuo palazzo. 5 minuti prima delle 9 il mio folletto verrà da te con una scatola. Nessuno sarà in grado di indovinare cosa c'è dentro. Vai subito! Vai nella foresta e cerca un fiore che abbia tutti e 7 i colori dell'arcobaleno. C'è un solo fiore in questo mondo come questo. Trovalo e consegnalo alla principessa domani mattina. Anche se il ragazzo lo dovesse indovinare, non sarà mai in grado di mostrarglielo. Ah, non sei carino. Andiamo». Il mattino seguente, la principessa stava aspettando il goblin vicino alla sua finestra. Mancavano 5 minuti alle 9, ma il goblin non arrivava. «Dov'è il goblin?» «Principessa, il re vuole vedervi ora. Sono le 9 in punto». Tornato nella sala, l'intero regno si radunò, aspettando di vedere il miracolo. La principessa uscì, ma vi era qualcosa di diverso in lei. Sembrava distratta. «Mio amore, negli ultimi 2 giorni non stavi pensando a niente. Stavi semplicemente facendo ciò che ti era stato ordinato. Ma oggi stai pensando a qualcosa. E so a che cosa». «Che cos'è? Che cos'è?» «Vostra maestà, vostra figlia sta pensando a questo goblin scomparso». «Cosa? Come hai...» «Oh, incredibile! Cosa? No, no! Questo non può essere! No! Scendi! Oh, Jack! Hai rotto l'incantesimo!» «Grazie, signore! Sono un soldato di questo palazzo! Il mostro cattivo era innamorato della principessa, ma lui non poteva averla. Mentre cercavo di salvare la principessa, lanciò un incantesimo su entrambi. Solo l'uomo che sarebbe riuscito a superare la prova poteva distruggerlo. E oggi... ci hai liberati dalla sua crudele magia». «Beh, non l'ho fatto. Il mio amico lo ha fatto. Principessa, ti presento il mio amico... aspetta. Non ti ho mai chiesto il tuo nome. Mi hai aiutato ancora e ancora, e non so nemmeno come ti chiami. Mi vergogno tanto di me stesso. Come posso essere così egoista?» «Sei tutt'altro che egoista, Jack. Sono tornato solo per merito tuo». «Tornato? Cosa intendi?» «Jack, non mi hai mai chiesto come conosco il tuo nome?» «Ho dimenticato di chiedertelo. Lo so perché lo hai detto ad alta voce a casa mia, mentre mi salvavi da quei ladri. Hai dato loro tutti i tuoi soldi, Jack, le tue 25 monete d'oro, così da farmi riposare in pace. Hai un cuore grande, amico mio, e ora il mio lavoro qui è finito. Hai trovato la tua principessa. È tempo che io vada. Jack era triste, ma sapeva che non avrebbe mai dimenticato il suo caro amico. Il regno si rallegrò per il loro nuovo principe. Jack e la principessa vissero felici e contenti. Fine.